Il punto di Stefano Folli. Finora la tempesta perfetta seguita al risultato del voto non accenna a evolvere. Nessuno ha ancora fatto una mossa, un gesto che possa agevolare il compito proibitivo di Giorgio Napolitano. Ognuno pensa in primo luogo a se stesso, al rapporto con i propri elettori, a quello che si chiama l'egoismo di partito. Insomma, il contrario esatto di quello che sarebbe necessario per dare un governo al Paese. Vedremo oggi se la direzione del Partito Democratico uscirà dall'intransigenza assoluta e saprà compiere il primo passo. Bersani ha più volte rivendicato di rappresentare il gruppo parlamentare più numeroso. Ora tocca a lui dare un seguito a questa affermazione, che implica anche un profondo senso di responsabilità.